Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11.08. Filippa Oreggi è in regia alla parte tecnica, severissimo. Laura Vanossi in redazione e come sempre ci sono i titoli del nostro sommario. Partiamo. Cambio di stagione. Donne sull'orlo dei 50 anni. Sanremo è sempre Sanremo. Emozioni dietro le quinte. Diabete. In coppia si controlla meglio. Sarà capitato anche a voi di dire: guarda, 50 anni ma non li dimostra, oppure di sentirvi fare questo complimento e di esserne in qualche modo lusingate. D'altronde è normale, soprattutto oggi, in un tempo in cui siamo tutti concentrati a nascondere o a mascherare i segni degli anni che devono esserci passare, ma senza lasciare traccia. Noi invece oggi vogliamo guardare in faccia, dritto negli occhi, questa età, 50 anni. Mi piace pensarlo un po' come un cambio di stagione, che potrebbe significare l'inizio di una nuova avventura, ma che per molte donne viene ancora vissuto come la fase dei non, delle privazioni, non più fertile, non più giovane, non più magra, non più bella. Per voi che ci state arrivando, per voi che ci siete già arrivate, per voi che ci siete già dentro, cosa significa, cosa ha significato affrontare questo passaggio? 800 24 0024. Chiedo a tutte voi di intervenire e di scrivere insieme a me questa puntata. Proviamo un po' a raccontare questa fase della vita con tutto quello che porta e comporta, con un'immagine, una parola che funzionano un po' da metafora. Inizio io che l'associo ad un paesaggio siciliano di fine estate, con la terra quella bella ancora calda, coi colori ancora vivi, i profumi intensi. Quello che ho negli occhi è proprio un'immagine che rimanda ad una sensazione proprio di pienezza, preludio anche di un autunno che immagino mite e caldo e che mi piace pensare attivo e propositivo, quindi in un certo senso anche un po' più utile rispetto alla primavera e all'estate. Ma io mi rendo conto che ciascuno di noi può vederla secondo una prospettiva diversa, ma approfitto della mia prima ospite per regalarvi subito un'altra immagine. In linea con noi la dottoressa Marina Piazza, sociologa, autrice di un libro dal titolo Le ragazze di 50 anni, amori, lavori, famiglie, nuove libertà. Dottoressa Piazza, buongiorno, è un piacere averla con noi. Buongiorno, buongiorno, un piacere anche per me. Dottoressa, ci regali una metafora. 50 anni come? Beh, guardi, io più che una metafora ho pensato a una parola che mi pare riassuntiva, e questa parola è desiderio. Mi sembra che possa riassumere il senso di tutte le cose che si possono fare in questa seconda parte della vita. Però questo desiderio è necessario coltivarlo, perché i desideri bisogna tenerli vivi, saperli, ed è quello che mantiene vitale, fa anche bene alla pelle, perché le persone che invecchiano bene non sono quelle che fanno il lifting, ma quelle che riescono a tenere vivo il desiderio e moltiplicare le risposte. Dottoressa, chi sono oggi le cinquantenni, queste ragazze che hanno vissuto da protagoniste i cambiamenti degli ultimi 30 anni? Ma sono le donne, ci sono due o tre fattori che le distinguono. Sono intanto le donne che hanno partecipato, sono le donne scolarizzate, è il grande salto della scolarizzazione, che hanno partecipato attivamente in prima persona alle trasformazioni sostanziali che hanno fatto dell'Italia un paese moderno, per cui è una generazione, sono una generazione speciale, una generazione di svolta. Questo è il primo grande fattore, cioè hanno fatto moltissime cose nella loro vita e questo è un elemento di forza anche per la seconda parte della vita. L'altro elemento è rappresenta anche questo una grande novità della generazione delle cinquantenni, perché sono prese di mira molto, diciamo, dai compiti di cura, hanno ancora i ragazzi in casa, magari fino a 30-35 anni, è difficile convivere con gli adulti, sì. eccetera. E poi hanno i genitori anziani, e noi abbiamo questa grande, come dire, risorsa, cosa, noi siamo il paese più vecchio del mondo, allora gli anziani naturalmente sono una risorsa, è ottimo che stiano in buona salute, eccetera, però sappiamo che attorno agli 80-85 anni poi, come dire, sono a grave rischio di in un'autosufficienza e quindi i compiti di cura, come dire, si moltiplicano. E poi è la prima generazione che è consapevole, perché i genitori nostri, cioè, non erano ancora, cioè, hanno vissuto a lungo ma non erano consapevoli, una generazione che sa che ha 30 anni almeno di vita davanti da vivere ed è un terzo della propria vita e che quindi non può essere un passaggio residuale, bisogna davvero inventarsi qualcosa. Dottoressa Piazza, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie buon lavoro. Buon lavoro. Restate allora con noi per parlare dei cambiamenti positivi, ma anche delle fatiche, delle difficoltà che avete incontrato, state incontrando o temete di farlo in questo cambio di stagione, intorno ai 50 o giù di lì. In linea con noi abbiamo, che ci accompagnerà per tutta questa puntata, la professoressa Rossella Nappi, ginecologa, endocrinologa e sessuologa all'Università di Pavia. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. In linea con noi abbiamo anche la dottoressa Jenny Valle, neuropsichiatra, psicoanalista e membro dell'Associazione Italiana di Psicoanalisi. Buongiorno dottoressa Valle, benvenuta. Buongiorno a tutti voi, grazie. Qua in studio io ho un uomo in questo gineceo, Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene, il mensile della Mondadori, che proprio a questo passaggio importante, alla menopausa, dedica un servizio molto interessante nel numero in edicola. Alessandro. Buongiorno Nicoletta. Come ti trovi? A tuo agio? Ma sempre, poi sai che io sono in una redazione di sole donne, sì, infatti, quindi sono abituatissimo. Per questo sei abituatissimo. Ma mi fa piacere essere qua con te oggi perché ho l'occasione di dare in anteprima prima nella tua trasmissione i risultati. Le domande erano tante, però ce n'è una sulla menopausa che cade a pallino, del nostro questionario. Noi abbiamo lanciato un questionario sul giornale e su starbene.it, che è il, sì, nostro sito. Beh, hanno risposto a ben 60 domande, non poche, 13.000 lettrici. E senti che cosa dicono della menopausa. Allora, pensando alla menopausa, ti viene in mente il 68% delle lettrici di Star Bene dice un passaggio delicato della vita dove costruire una nuova dimensione della femminilità. Beh, io trovo che in questa risposta ci sia una voglia di costruire qualcosa e lo trovo molto giusto, perché una donna a 50 anni mi fa venire di più una donna in mente, una donna di 40 anni è ancora spesso una mamma, addirittura magari ha avuto un figlio a 40 anni. Per me la mia immagine è una donna giovane, insomma, con tutte le possibilità. Certo, deve fare i conti con un cambiamento che è anche fisico. Infatti il 53% dice che degli anni che passano teme soprattutto i problemi di salute, però c'è un investimento da questo punto di vista. Allora noi abbiamo fatto questo servizio che è un po' un gioco, perché se tu lo guardi nell'impaginato, sì, è una specie di gioco dell'oca dove ci sono dei punteggi che portano a 50, guarda caso, e sono tipo, non so, 8 punti se fai regolarmente un check della salute. Insomma, tutte varie tappe che servono a vivere la menopausa non come qualcosa di negativo, ma come qualcosa di positivo. Una chance, certo. Professoressa Nappi, dottoressa Valle, dalle fotografie di Alessandro Pellizzari, voi siete, come vi ponete? Insomma, Alessandro ha, dai dati che hanno ricavato, tracciato un profilo di una cinquantenne attiva che è consapevole delle proprie forze, del proprio fascino, delle proprie possibilità, teme un po' la malattia, ma insomma molto diversa da quella di una donna dell'altra generazione. Professoressa Nappi. Non c'è ombra di dubbio, io vedo la menopausa come tu dicevi, un paesaggio di fine estate, io dico un acquarello un po' scolorito dal tempo che viene ridipinto da un magico pennello con nuovi colori brillanti. Marina Piazza parlava di desiderio, io parlerei di piacere di essere donna a 50 anni, di ricominciare da 50 e di vivere questo periodo di cambiamento come un'occasione d'oro per preservare salute e benessere nel tempo in una dimensione nuova della femminilità. Quindi concordo assolutamente con le lettrici di Star Bene. La dottoressa Valle? Assolutamente concordo anch'io con tutto quello che è stato detto sia dalle lettrici che da chi è intervenuto finora. Credo che sia una sorta di grande occasione, con molte difficoltà che però non bisogna negare, perché non dobbiamo nemmeno adesso sviluppare una sorta di pensiero onnipotente, no? Sì, per cui certo, questa è la grande occasione della vita. È una nuova occasione nella quale appunto la femminilità può essere, può in qualche modo aiutarci a trionfare sul trascorrere degli anni e quindi a vivere questa età matura sfruttando tutte quelle risorse che forse non abbiamo ancora messo in campo, comprese quelle amorose, nelle età precedenti. 800 24 00 24, questo è il numero per partecipare in diretta, per parlare di 50 anni, di menopausa, delle avvisaglie, dei sintomi, dei controlli da fare, ma soprattutto oggi vorremmo dare voce alle nostre emozioni, alle nostre fragilità, che molto spesso però possono diventare anche dei punti di forza, a patto che impariamo naturalmente a conoscerle e ad accettarle. 349 238 6666, vi aspetto. Una mela al giorno. Dolce Nera torna a Sanremo e ritorna anche ai nostri microfoni, perché noi l'abbiamo già avuta, se vi ricordate, proprio in occasione di un precedente Sanremo. Dolce Nera, ciao, benvenuta. Ciao, come stai? Benissimo, Dolce Nera, siamo a essere benessere. Senti, così giovane e così big, grande e veterana, tra l'altro di un palco che devo dire tu domini alla perfezione, ma come ti senti a rivivere l'esperienza da cui poi tutto è partito? Quest'anno la vivo con più divertimento, devo dire, cioè perché il pezzo lo permette, la canzone è una canzone veloce, che con un ritornello di positività, insomma, no? È quello che ci vuole, quindi, certo. Quindi c'è divertimento sul palco, ci sono i ragazzi della band, mi sento a casa, ecco. Ti senti a casa, anche noi ci sentiamo a casa con te. E a casa nostra c'è anche Alberto Pellai, che è in linea con noi. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, ne approfitto subito, faccio io una domanda all'artista, perché c'è un aspetto di Dolce Nera che mi ha molto colpito. Lei è un'artista molto sensibile, con molta grinta e molta dolcezza sul palco, ma forse qualcuno non sa che lei è anche un ingegnere. Quindi io mi domando se la parte più logica, razionale, matematica che c'è, lei le serve quando sale sul palco a domare un po' la parte invece dell'artista che c'è in lei? Fa convivere bene queste due parti, oppure la matematica, l'ingegnera che c'è in lei, bisogna dimenticarle sul palco di Sanremo? Il bisogno di analisi che ho io delle cose e nella vita, il bisogno di certezze, il bisogno di programmare, e queste cose qua mi aiutano molto prima di salire sul palco. Diciamo, non affronto mai le cose magari in leggerezza, come dire, così, solo con divertimento, ecco. Questo è un mestiere e la parte estrosa rimane sul palco, la parte istintiva. Per il resto invece sei un operaio, no? E quindi io utilizzo quella mia parte razionale per tutto il resto prima. Tra l'altro, subito dopo Sanremo uscirà il tuo nuovo CD Dolce Nera nel Paese delle Meraviglie. Mi chiedo cosa c'è nel Paese delle Meraviglie di Dolce Nera. C'è l'amore. L'idea di questo titolo mi è venuta leggendo un libro di Jeanette Winterson, si chiama Scritto sul corpo. In questo libro Jeanette dice: l'amore è il paese delle meraviglie, parafrasando Alice. Fondamentalmente la sensazione che ho in questo momento, è come che ho vissuto negli ultimi 6-7 mesi, no? È che questa crisi generale sociale, no? Che coinvolge l'Occidente, è un qualcosa che ci sta un po' provando, ecco. Si ripercuote in tutti i settori, anche nell'ambito della musica, ecco. Per cui di fronte alla situazione così di incertezza, l'unica soluzione che ho trovato, a parte la partecipazione sociale alla politica, eccetera, al senso civico, l'unica soluzione che ho trovato è riuscire a sentirsi almeno in pace con il resto del mondo, che vuol dire stare in equilibrio con la persona che ami. Senti Alberto, che profilo ha questa artista secondo la tua percezione di psicoterapeuta? Ma secondo me viene fuori veramente una donna a tutto tondo, una donna tra l'altro che veramente è ancora molto ragazza, molto adolescente, secondo me, su tanti aspetti. C'è questa dimensione dell'entusiasmo, della passione, ma poi è molto capace anche di guardare avanti. Devo dire che una cantante che sale sul palco di Sanremo e contemporaneamente mette un po' in relazione una canzone sull'amore con la crisi in cui ci troviamo un po' tutti, sta facendo un pensiero alto. E devo dire che anche la citazione che lei ha usato per scegliere il titolo poi del suo nuovo CD è una citazione alta, per cui brava Dolce Nera. Allora, un consiglio per Dolce Nera e uno per noi. Ma direi a lei, chissà come mai mi è venuto questo pensiero, ma quasi quasi prima di salire sul palco la prossima volta, o leggere oppure guardare il film Il colore viola, dove c'è una storia d'amore molto complicata, di ricerca molto complicata, e dove tutto poi trova un equilibrio che libera davvero le emozioni forti di tutti i protagonisti. E un po' sull'ispirazione che lei ci ha dato, che tutto è una ricerca di equilibrio e che l'equilibrio insomma va cercato mercato, ma non è facile da trovare, un classico. Gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere di John Gray. Allora, Dolce Nera, grazie perché ci hai emozionato, ci hai portato una sferzata di passione, entusiasmo, di giovinezza. Un grande abbraccio da parte mia e anche di Alberto Pellai. Un abbraccio a tutti e due, veramente, sincero. Grazie. Ciao. Buona giornata. Grazie, ciao. Pronto soccorso. 30 erano pochi, l'ho capito a 40. 40 erano pochi, l'ho capito a 50, che non sono pochi, né più di 50. Sarebbe un peccato capirlo a 60. Però se faccio la prova del 9, avanzano 11, ne ho 39. Cambio di stagione, le ragazze di ieri sono diventate donne e devono fare i conti con i cambiamenti che gli anni producono nel loro corpo e nella loro mente, e quindi anche a cascata nelle loro relazioni, nel loro nuovo modo di vedere e giocare la vita. Abbiamo qua in studio con me Alessandro Pellizzari, che ci ha dato in anteprima, proprio qua a Radio 24, i dati di un'indagine molto importante che il quotidiano, il mensile Star Bene ha svolto, quante su un campione di, ricordiamolo, 13.000 donne. E quindi una menopausa tratteggiata dall'elettrice di Starbene, che devo dire è in linea con quella raccontata dalla professoressa Nappi, da Marina Piazza e dalla dottoressa Valle, che è tra l'altro l'autrice di Segni e sogni di una notte di mezza età, di cui abbiamo tratto la filastrocca che avete appena sentito. Dottoressa Valle, più che una filastrocca, una psicastrocca. Certo, anche se io racconto una esperienza molto comune, quindi non c'è nemmeno bisogno di ricorrere a grandi strumenti interpretativi. Sì. È che quello che voglio dire è che la giusta percezione della nostra realtà molte volte arriva tardivamente, quindi facciamo una sorta di risignificazione retroattiva delle nostre esperienze. Quando ce ne rendiamo conto conviene imparare rapidamente la lezione, perché per esempio a 40 anni uno si può rendere conto di quanto fosse giovane a 30, mentre a 30 magari si sentiva piuttosto in là con gli anni, con qualche velo di malinconia. A 50 può accadere la stessa cosa guardando troppi 40. Bene, a questo punto siamo nel cuore della mezza età e conviene considerare i nostri 50 per quelli che sono, cioè semplicemente l'età matura. Però in chiusura del componimento quello che io voglio raccontare è contemporaneamente la difficoltà che si può provare nel mettere insieme l'immagine che rimanda allo specchio con il modo di percepire la nostra età, perché a questo punto magari ci sentiamo giovani, ma è anche un incoraggiamento al sorriso ironico. Ma certo, ma questo non bariamo. Non bariamo, ma ci vuole. Professoressa Nappi, a proposito di anni, parliamo di menopausa fisiologica. A che età è giusto aspettarsela? A cavallo dei 50? E quali sono le avvisaglie? Sappiamo che non arriva dall'oggi al domani, ma molte donne sono sempre perplesse. Sarà, non sarà, salta un ciclo? Professoressa Nappi. È vero, questo è un momento che crea parecchia instabilità nella donna. Diciamo che dalla notte dei tempi la menopausa si verifica più o meno tra i 48 e i 52 anni, e questa data non è cambiata nonostante si sia allungata l'età media. Le avvisaglie colpiscono i due organi bersaglio principe degli ormoni: da un lato l'utero, quindi le prime regolarità mestruali, cicli che si avvicinano, cicli che saltano, cicli che diventano abbondanti o più scarsi, e dall'altra parte l'altro organo importante che è il cervello, e dunque un po' di instabilità emotiva, le mitiche vampate di calore, tachicardie, un senso di diciamo non riuscire più a fare le cose che si facevano prima sul versante della concentrazione, tutti sintomi e segni che nascono da un particolare centro del cervello che diventa in alcune donne più che in altre particolarmente sensibile alle alterazioni ormonali. Abbiamo Laura che ci chiama da Pisa. Buongiorno Laura, benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e grazie per sì, perché tra donne si dato questo spazio. Perché Laura, tra donne si sta bene, anche Alessandro Pellizzari concorda, vero Alessandro? Io ci sto benissimo. Benissimo. Allora Laura, ci racconti di lei. Io volevo portare la mia testimonianza, perché io oggi ho 60 anni, anzi fra poco 61 a marzo, e devo dire che 50 anni, il momento della mia menopausa, è stato un cambiamento secondo me positivo. Sì. In primis ho trovato il coraggio di tagliare col mio ex compagno e farmi una nuova vita. Bene. Seconda cosa, ho fatto tutte le cose che negli anni precedenti non avevo potuto perché avevo bambini, io ho 3 figli, mm-hmm. avevo bambini da crescere, lavoro, casa, eccetera, eccetera. E quindi mi sono dedicata agli hobby, alle cose che mi piacevano di più, avevo più spazio e ho cominciato a coltivare per esempio il ballo. Oggi è una ballerina coi fiocchi. Una ballerina che praticamente faccio gli stage, mi diverto. Quindi una nuova vita, Laura. Una nuova vita. In pratica ha svoltato. Dopo i 50 anni la svolta. È stata una svolta positiva perché ho più tempo per me. Sì. Perché posso fare le cose che mi piacciono. Sto benissimo con me stessa. Laura. E quindi io la ringrazio per questo messaggio. Che meraviglia! Vero? Eh? Alessandro, quindi anche che ci aiuta a vedere, proprio a raccontare la menopausa dall'esperienza diretta delle nostre ascoltatrici, così come star bene ha fatto con le lettrici. Laura, un messaggio pieno di ottimismo. Chi sei? Fuori c'è la vita, è un brano tratto da un musical che ha avuto grande successo e che ha portato proprio la menopausa in teatro. E in linea con noi abbiamo Marisa Laurito. Ciao Marisa! Buongiorno a tutti, salve! Allora, come si va? Noi andiamo bene, direi a gonfie vele, ma questa menopausa che tu l'hai cantata nel musical, ecco, che cos'è per te la menopausa, Marisa? Cosa ti ha aggiunto, cosa ti ha cambiato? No, guarda, a dire la verità io non ho avuto proprio problemi, non so per quale motivo, ma insomma non me ne sono neanche accorta, ma sembra che per molte persone sia così, mentre invece altre fa un effetto, come dire, disperante. Questo che dici, Marisa, è assolutamente vero. Chiederei alla professoressa Nappi, è vero, una donna su 4 ne soffre? E questa è un po' la proporzione? È vero, Nicoletta. Ciao Marisa. Probabilmente Marisa non ne ha sofferto perché è un po' cicciottella ed è una grande creatrice di idee, di pensieri e di cose gioiose. Diciamo che in una donna su 4 la carenza ormonale colpisce effettivamente tutta una serie di organi e apparati che sono particolarmente sensibili in quella donna per una vulnerabilità sua propria. A volte il basso peso, a volte l'aver avuto già degli eventi negativi nella vita, sia in senso depressivo, sia in senso di altri aspetti della salute, può condizionare questa vulnerabilità. Non è una colpa però soffrire dei sintomi della menopausa, eh? Assolutamente. Non è una mancanza, fa parte di una biologia che ci predispone a quello. Marisa, quindi cambiamento della vita, come ce ne sono tanti, ne superiamo tanti, anche l'adolescenza è un momento difficile, diciamo complicato, però io credo sempre che l'ottimismo e, come dire, porgersi a questi cambiamenti in modo felice aiuta al di là di tutto, no? Sì, poi ci sono persone come te, io poi non so come sei poi nella tua vita dietro le quinte, ma sei una donna che a vederti metti allegria, secondo me sei uguale. Uguale e tu uguale. Hai citato, Marisa, proprio un'adolescenza. Volevo chiedere alla dottoressa Valle, io ho letto che alcuni psicologi paragonano proprio la menopausa come una seconda adolescenza e soprattutto fanno riferimento a quell'instabilità emotiva che è tipica di questo periodo. Poi con la professoressa Sanappi andremo a vedere se è proprio sempre tutta colpa degli ormoni. Dottoressa Valle. Ma anche io sì, farei un accostamento con l'adolescenza, però nel senso di due fasi della vita, due periodi nei quali la fatica di crescere è particolarmente intensa perché si deve continuamente ridisegnare la propria immagine di sé, includendo e integrando tutti i cambiamenti fisici e psichici in una nuova rappresentazione, mantenendo però un senso di continuità con quello che eravamo. Certo. Cioè, è un rimaneggiamento. Siamo sempre noi, insomma. Siamo sempre noi e dobbiamo anche ricordarci che la costruzione della nostra identità è un processo, è un viaggio mai del tutto compiuto. E a proposito della instabilità dell'umore, io credo che un pochino, adesso indipendentemente da quelli che sono proprio gli influssi ormonali, ma comunque un pochino si appoggi proprio anche sulla instabilità fisica, perché tra l'altro appunto una donna in menopausa non sa quando arriverà il momento del troppo caldo, del troppo freddo, la mestruazione non arriva o arriva nei momenti più impensati, cioè questo provoca anche una sensazione di incertezza crescente, però se la vita della persona nell'insieme è felice, questi disturbi possono, non dico essere insignificanti, però essere vissuti con il passo nel modo giusto. Io so che Marisa deve scappare, ci ha proprio fatto un regalo e ti ringrazio perché è presissima. Marisa, come ci saluti? Vi saluto molto bene. Soprattutto alle nostre. Vi saluto molto bene, non parlate della menopausa appunto in modo pesante perché è. Come dire, noi abbiamo fatto questo spettacolo e ancora lo stiamo portando in giro, appunto abbattendo il tabù della menopausa. Non accade niente essendo in menopausa, si può ugualmente continuare a fare l'amore, ci si può innamorare, si può vivere anzi forse più libere da problemi che in gioventù si sono avuti, come quello per esempio di stare attenti a non fare figli. Insomma, si può mangiare cioccolata, champagne e pasticcini. Insomma, alla fine ci guadagniamo. Cose positive della menopausa. Marisa, grazie e ti seguiremo. Prossime tappe dello vostro spettacolo? Adesso noi riprendiamo marzo e aprile con naturalmente Fioretta Mari, Fiordaliso e Emanuela Metri. E andremo in giro a gozzovigliare perché noi siamo, guarda, sì, molto come no, ma io vi ho viste, cosa credi? Io vi ho viste anche goderecce, per cui il fatto di portare insieme in giro questo spettacolo è anche un modo per divertirci molto, per mangiare cose buone e per stare molto allegre. Guarda, veramente. si vede, basta vedervi e anche sentirvi. Grazie a Marisa Laurito, verremo a trovarti. Grazie a tutti, arrivederci, professore, arrivederci. Abbiamo i nostri ascoltatori che abbiamo un po' trascurato con tutti questi ospiti. Abbiamo Roberto che ci chiama da Milano, poi Giulia. Roberto, buongiorno. Buongiorno. L'ho chiamata soprattutto perché così Alessandro Pellizzari non si sente solo. Ci racconti. 47 anni, una moglie più grande di me di 48, che è entrata in menopausa perché ha avuto a subire delle cure. Non so, forse anche per una maggiore solidarietà, tutte queste cose lì, però molto più attraente adesso che a 30 anni, molto più desiderata adesso che a 30 anni, 50 anni sono una gran bella cosa. 50 anni sono una gran bella cosa, meno male che ci arriviamo. Professore Sanappi, trasformazioni abbiamo detto, l'umore, alcuni organi ne risentiamo, alcune donne soffrono e non si devono sentire in colpa perché i sintomi possono essere davvero fastidiosi, abbiamo parlato delle vampate, la mancanza di concentrazione, l'aumento di peso. Il nostro ascoltatore Roberto però trova una donna quasi ancora più attraente di prima, la sessualità in menopausa è molto importante, professore Sanappi. Ma certo, è importante perché ci fa sentire vive e questo è fondamentale, avere dalla propria parte un partner che ci ama e che ci desidera ancora, quindi questo è un potentissimo afrodisiaco, però attenzione, in alcuni casi la biologia viene meno, ricordiamoci che i tessuti tendono ad appassire e non solo il nostro viso che ha qualche ruga in più, ma anche purtroppo i tessuti genitali e la sessualità si fa col corpo, con la mente ma anche col corpo, ragazzi, e quindi se i processi della lubrificazione, delle sensazioni non sono così adeguati, qualche volta purtroppo la donna continua ad amare, continua a desiderare, ma può provare dolore ed è per questo che dobbiamo parlare della menopausa, parlare dei suoi cambiamenti e cercare, laddove è necessario, di aiutare le nostre pazienti con delle strategie mirate. Infatti, noi donne dobbiamo imparare a raccontarci, talvolta e molto spesso ci trascuriamo. Dottoressa Valle, nelle sue filastrocche si intravede un po' questa nostra abitudine a dire e non dire, invece bisogna aggiungere un po' di informazione alla nostra vita quotidiana, avere un riferimento, parlarne con il nostro medico, con il nostro partner, e senza essere rassegnati, giusto dottoressa? Certamente. certamente. Il rapporto di coppia è particolarmente importante in questo periodo, perché noi adesso stiamo parlando della menopausa e quindi stiamo parlando di una problematica tutta riferita al femminile, ma la mezza età riguarda anche gli uomini. E credo che sia veramente molto importante per tutti e due accompagnarsi reciprocamente. E il gioco di rispecchiamento delle rughe dell'uno nel viso dell'altro può essere un'esperienza condivisa e dolce che crea ancora più intimità e complicità nella coppia. Forse noi uomini dobbiamo fare un po' come ha fatto l'ascoltatore, cioè aprire la nostra attenzione verso di voi in questa fase, anche perché dobbiamo approfittare di un altro elemento importante che più persone hanno citato, più libertà, quindi ci sono più spazi, approfittiamone. Io vorrei salutare Giulia da Milano che ci sta aspettando. Giulia? Pronto? Buongiorno Giulia, grazie Nicoletta. Per essere con noi. Giulia, bella, siamo insieme. Sì, allora, io volevo portare un'esperienza abbastanza positiva, nel senso che io ho 53 anni, mi sono ritrovata in menopausa a 43 per via di un intervento, sì. Però devo dire che ho vissuto molto bene, sto vivendo bene questa cosa, per il semplice fatto che forse mi sono preparata psicologicamente, nel senso che sapevo che con l'intervento sarei stata meglio, sapevo però a quali situazioni sarei andata incontro, tutte molto tipiche di quelle che diceva prima la dottoressa. Sì. Però quando sento queste situazioni so che la causa è la menopausa, quindi prima di tutto ho una motivazione, essendomi preparata psicologicamente le accetto perché dico è questione di un momento, poi va, non ho fatto cure alternative, sì, alla menopausa, la vivo molto bene, ho la fortuna di avere un fisico per cui non ho messo su netto a discapito del ginecologo che mi diceva che avrei dovuto aumentare qualche chilo, quindi questa praticamente è una fortuna, però mi ritrovo a dire davvero, perché ho avuto tante mie amiche che davvero sull'orlo della depressione, sì, perché non hanno più, si sentono proprio demotivate, e io dico non è vero, perché veramente se facciamo un lavoro su noi stesse prima e durante questo periodo si può vivere benissimo in serenità, naturalmente avendo anche da parte del marito eccetera queste comprensioni, e ogni ruga secondo me è un'esperienza di vita che non dobbiamo mai dimenticare. Grazie Giulia, grazie davvero. Professoressa Nappi, dottoressa Valle e anche Alessandro. Giulia ci parla della donna che si prepara. Professoressa Nappi, per prepararsi bisogna essere informati, e questo è anche uno dei motivi per cui affrontiamo questo tema così delicato, che può essere affrontato sotto tanti punti di vista oggi, per parlare con le donne, per informarle. Professoressa Nappi, dalla testimonianza di Giulia, lei come ginecologa quale messaggio può dare alle nostre ascoltatrici? Che è giustissimo prepararsi psicologicamente discutendo con il proprio ginecologo una serie di cose. È indubbio che Giulia però è una donna particolarmente fortunata sul versante suo, biologico proprio, e probabilmente anche personale e relazionale. Perché purtroppo a volte la menopausa chirurgica, seppure ci libera, hai capito, di un organo che magari ci stava dando molto fastidio, pensiamo al dolore mestruale, alle emorragie, altri tipi di problemi, e quindi è quella liberazione di cui parlava la nostra ascoltatrice, dall'altra parte può comportare dall'oggi al domani venire in un cambiamento al cui il corpo non riesce ad adattarsi, anche se si è preparato psicologicamente. Io torno a ripetere che esiste una predisposizione biologica ad essere più o meno vulnerabile alla menopausa, ed è chiaro che la biologia poi si accompagna anche a psiche e relazione, no? Perché noi siamo nel nostro corpo quello che siamo nella nostra mente e viceversa. Ne è venuto fuori anche dall'indagine vostra, Alessandro, questo timore delle donne di avere malattie, perché ci sono tante donne anche che ci scrivono come se dall'oggi al domani tutto quello che leggiamo, sentiamo su quelli che sono i rischi, no, della menopausa, quindi più problemi di cuore, l'osteoporosi, il sovrappeso, certo, boom, dall'oggi al domani come un mattone ci capita. Il 54%. E il problema è che voi dovete lottare da una parte con la vostra forza, perché voi siete molto forti, pensate sempre di superare da sole tutte le avversità, invece in questo caso forse conviene spicciarsi e sentire il ginecologo presto, perché magari per esempio certi problemi sessuali si superano anche facilmente. Comunque dobbiamo controllarci. A proposito dei controlli da fare, voglio farvi sentire questa filastrocca della dottoressa Valle. Mock, tac, pap, non è rock, non è rap. Questo ritmo travolgente fa ballare corpo e mente. Buchi buchi, glicemia, bossa nova, lipemia, cia cia cia, protidogramma, ecodoppler, cardiogramma, rumba di mammografia, tango dell'ecografia, salsa per gastroscopia, saltarello la biopsia. Gran galà pubblicitario del sistema sanitario, ballo della prevenzione per la mia generazione. Basta, sono già sudata, meglio che mi dia malata. Dottoressa Valle, le sue filastrocche sono davvero divertenti, mi avrebbe fatto piacere farle sentire di più, ma il tempo. A proposito di questo, prima di passare la parola alla professoressa Nappi per chiederle quali sono i consigli e i controlli, anzi, da fare, volevo chiedere a lei come si può, molte donne si sentono proprio un po' malate quando entrano in menopausa, il fatto di non avere più il ciclo, di cambiare un po', no, prospettiva di vita. A queste donne come si possono aiutare, quale indicazione possiamo dare? Ma io mi riferirei alla testimonianza, mi pare si chiamasse Giulia, sì? Della signora, ecco, perché io ho percepito che questa signora ha fatto un grosso lavoro su se stessa, cioè mi ha detto mi sono preparata. Allora il modo in cui attraversiamo la menopausa, anche con tutte le incertezze, le paure, anche connesse a un corpo che si può ammalare, dipende da come abbiamo attraversato le fasi precedenti della vita, e cioè questa è una nuova occasione, come dicevamo prima, anche per ripensarci e per confrontarci con tutta una serie di problemi squisitamente personali che poi ci fanno vivere questo passaggio con un'apprensione ossessiva, certo. Con appunto, quindi la prevenzione delle malattie può assumere un carattere ossessivo e svelare l'esistenza di un pensiero malato, anche di qualità onnipotente, come se noi davvero, no, potessimo tenere tutto sotto controllo. E comunque, senza arrivare a queste situazioni estreme, l'esagerazione ha sempre un costo elevato, che è quello di sentirci sempre potenziali malati. Malate. Ma noi ci facciamo aiutare dalla professoressa Nappi, siamo in chiusura e si entra in menopausa, sono in menopausa, che controlli devo fare? Per non farne di più e per non farne di meno. Rapidamente in chiusura, professoressa Nappi, lasciamo le nostre ascoltatrici con queste indicazioni. Dobbiamo partire quando siamo ancora sane, quindi quando siamo in premenopausa. Una mammografia dopo i 40 anni è d'obbligo. Poi lo scadenziario lo darà il medico radiologo in base alle, certo, problematiche. Un pap test, un dosaggio molto semplice per vedere zuccheri e grassi nel sangue. Ricordiamoci sempre la nostra storia familiare, ci dice chi saremo noi andando avanti negli anni, e quindi in base a quello che sappiamo dei nostri genitori dobbiamo programmare con il nostro medico quei controlli che sono adeguati ai nostri fattori di rischio e alla nostra vulnerabilità. Grazie professoressa Nappi, è sempre un piacere averla in linea. Grazie alla dottoressa Valla, ad Alessandro Pellizzari. Grazie, ricordo il numero di Star Bene in edicola, ricordo il libro della dottoressa Valle con le filastrocche, Segni e sogni di una notte di mezza età. Grazie davvero, buona giornata a voi. E adesso cambiamo decisamente argomento per parlare di diabete. Sono circa 3 milioni gli italiani che si confrontano con questa malattia cronica che, però, rispetto ad altre patologie, implica una forte componente di autogestione. Il 95% più o meno delle cure necessarie per il controllo del diabete sono infatti gestite direttamente dal paziente, che naturalmente non va lasciato solo con la sua malattia. Anzi, una ricerca dimostra che i pazienti che hanno accanto una moglie, un marito, insomma un partner attivo nella gestione della malattia, rispondono meglio alle terapie e in più controllano meglio il diabete. Insomma, in coppia si sta meglio. Ne parliamo oggi con il dottor Edoardo Mannucci, dirigente medico del servizio di diabete, unità di geriatria al Dipartimento Malattie Cardiovascolari all'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Dottore, allora, in coppia si vince? Direi soprattutto per gli uomini, che meno facilmente sono pienamente consapevoli della propria malattia e della necessità di curare il proprio stato di salute, se non sono sostenuti da una figura femminile di riferimento. Questo almeno è ciò che risulta da questa bella ricerca dell'Eurisco che è stata recentemente resa nota e che fa appunto vedere come la grande maggioranza dei pazienti, soprattutto di sesso maschile, con il diabete si avvalgano e siano adeguatamente sostenuti da figure femminili di riferimento. Tra gli aspetti interessanti che sono emersi da questa ricerca, cioè la parte partecipazione molto attiva della persona che sta, si usa un termine inglese che è quello di caregiver, che sta accanto al paziente, anche nella gestione quotidiana, compresa l'assunzione dei farmaci, cioè abbiamo molto spesso prescrizioni molto complesse, con grandi numeri di farmaci, e questo condiziona poi la capacità del paziente di seguire ciò che gli è stato raccomandato nel lungo termine. Dottor Mannucci, io la ringrazio, le auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei. Grazie a voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento come sempre torna domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.